Questi 2 giorni mi sono serviti moltissimo per capire quanto è grande la mia ignoranza in merito e anche e soprattutto per capire in che modo io fino ad oggi ho lavorato in maniera completamente diversa, anche se forse certe cose... Sì? No, no, no, no, niente, niente, niente. Sì, benissimo. Che... E quanto io quindi da sola, manualmente, sono riuscita a giungere alle stesse conclusioni, magari in maniera meno organica, delle dottoresse che mi hanno preceduto. Quindi, come ieri anche sottolineava la De Sandre, anche il mio intervento ha l'unico scopo di presentare a grandi linee il materiale che è a mia disposizione, inerente appunto alle visite apostoliche, ma sentite? Le visite apostoliche poste tridentine in Umbria. E quale è quindi, mi limiterò solo a questa, qual è lo stato attuale della ricerca senza così pretendere di dare suggerimenti metodologici, ma solo, casomai, di porre a voi riflessioni e interrogativi sulla possibilità di utilizzo di tale fonte per la computerizzazione dei dati. Quindi io premetto subito che sono completamente neofita. Detto ciò, prima di addentrarmi nell'argomento, permettetemi di fare una necessaria ricostruzione storica dell'iter di questa mia ricerca. Da oltre un decennio mi occupo di visite apostoliche umbre, ma questa mia affermazione naturalmente non depone a mio vantaggio, ma alterne vicende in questa impresa hanno impedito l'espletamento del lavoro fino ad oggi. E ve lo devo chiarire perché se no non capite, questa non ha fatto niente. L'allora direttore della ricerca, padre Larino da Milano, aveva iniziato con un finanziamento del CNR la raccolta delle visite apostoliche unitamente ad un'equipe formata allora soprattutto da laureandi. All'inizio la ricerca brancolò per lungo tempo nel buio, per impossibilità logistiche e riorganizzazioni del materiale chiaramente vastissimo e per la frammentarietà di finanziamenti. La letteratura intorno alle visite apostoliche è poverissima, come sapete, abbastanza lacunosa è anche la bibliografia relativa. Inoltre le visite apostoliche sono spesso disperse nei vari archivi centrali e periferici e solo in alcuni casi esistono copie in Vaticano. I tentativi dunque di dar vita ad un corpus visitationum apostolicarum per l'Umbria era allora solo in fase di proposta. Con questo intento venne infatti fatta un'indagine a tappeto presso tutti gli archivi dell'Umbria e venne raccolto e trascritto gran parte del materiale reperito e quindi fotocopiato o microfilmato, a seconda dei casi. Si erano anche presi contatti allora con Eugenio Massa, che curava appunto l'edizione delle visite e delle edizioni di storia e letteratura. Ma l'improvvisa scomparsa del direttore di ricerca fece naufragare per un certo numero di anni l'idea di registrare tali visite. Alla metà degli anni Ottanta, e qui viene il bello, la direzione della ricerca passò a me, che nel frattempo avevo sempre comunque continuato a portare avanti il lavoro, anche se in maniera discontinua, ancora non avevo naturalmente il computer, ce l'ho solo da poco, per mancanza di finanziamenti e quindi di manodopera. Finalmente i finanziamenti arrivarono, quelli del Ministero della Pubblica Istruzione, e con questi sono riuscita ad organizzare una piccola equipe specializzata e a continuare il lavoro in maniera più organizzata. Raccolte e trascritte le visite rimaste escluse in precedenza, sono stati fatti anche i confronti con le copie giacenti presso l'Archivio Vaticano e con le visite pastorali coeve. Gli atti delle visite sono stati tutti reperiti presso gli archivi delle curie locali e molti di questi comprendono più di un volume, alcuni non proprio nella stessa diocesi, nella diocesi vicina, ma tutti nelle curie locali. Solo per la visita di Paolo Maria della Rovere a Città di Castello, che nel 1571, ci si è trovati di fronte a notevole difficoltà interpretativa, per il cattivo stato del materiale che risulta in gran parte illeggibile. Purtroppo per questa visita non abbiamo nemmeno il confronto con la copia dell'Archivio Vaticano e quindi per il momento si è dovuto soprassedere. Per tutte le visite la lingua usata è il latino ecclesiastico, ma quando si fanno parlare i parrocchiani, talvolta le monache, troviamo anche il volgare dialettale. La durata delle visite in Umbria è per lo più brevissima, vanno da un minimo di un mese e mezzo a un massimo di 6 mesi. Solo un caso, 6 mesi. E alla fine, in quasi tutti, abbiamo i decreti. Questo è in linea generale un po' il prospetto di queste visite. Nello stesso tempo si è cercato di modificare la metodologia di lavoro e superando la registrazione, che appunto prima era stata individuata, che risultava troppo complessa e non facilmente utilizzabile, sono giunta ad approntare sulla scia del modello francese di Lebrun e sulle ultime indicazioni del volume Turchini-Mazzone un metodo basato su schede precostituite, dove vengono evidenziati i dati più importanti e gli elementi comuni a tutte le visite. Nel frattempo, vari studi sono stati pubblicati come primo approccio alle problematiche che emergono dalla lettura delle visite, ma sempre, fino ad oggi, in modo abbastanza frammentario e circoscritto, come, tanto per ricordarne alcuni, il saggio di Ugolino Nicolini, la visita apostolica post-tridentina della diocesi di Perugia, oppure quello mio, una fonte per la storia socio-religiosa in Umbria, le visite apostoliche in diocesi di Assisi, Foligno e Orvieto, quello di Buoncristiani, la diocesi di Foligno nella seconda metà del Cinquecento, che appunto tratta la visita apostolica di Camaiani, quello della Casa Grande, ricerche sulle confraternite della diocesi di Spoleto e Perugia da visitaciones cinquecentesche, il volume mio, Le confraternite di Assisi tra riforma e declino, tra i secoli XVI e XVIII, e il recente saggio di Flavio, che anche ieri è stato ricordato, Grado di istruzione del clero reatino nel periodo 1560-1620. Ma l'intento che mi sono prefissa è quello di dare una visione completa della Chiesa Umbra nel periodo post-tridentino, cercando quindi di evidenziare le uniformità o meno tra le varie diocesi. A completamento di ciò si sta preparando la pubblicazione di un volume dal titolo Riforma cattolica nello Stato Pontificio, l'Umbria e le sue diocesi tra permanenze e rinnovamento, perlomeno questo dovrebbe essere il titolo definitivo, che dovrebbe così colmare una grossa lacuna nella storia della Chiesa in Umbria tra i secoli XVI e XVII. E veniamo a noi. L'Umbria, all'indomani del Concilio di Trento, comprendeva 13 diocesi: Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Narni, Nocera, Orvieto, Perugia, Rieti, Spoleto, Terni e Todi. E venne visitata tra gli anni 71 e 74 da 5 visitatori apostolici. Inizialmente Pio V affidò la visita delle diocesi umbre a 2 visitatori: Paolo Maria della Rovere, vescovo di Cagli, e Pietro de Lunel, vescovo di Gaeta. Il primo doveva visitare Città di Castello, Perugia, Todi, Amelia, Assisi, Foligno, Nocera e Orvieto. Il secondo Terni, Narni, Spoleto e Rieti. Tutti e due quindi comprensivi di tutta l'Umbria. Ma i visitatori avevano appena iniziato a svolgere il mandato a loro affidato. Paolo Maria della Rovere aveva visitato Città di Castello e Perugia, Pietro de Lunel, Narni e Spoleto, quando, come sapete, Pio V morì e così il loro incarico ebbe termine. Il nuovo Papa, Gregorio XIII, nel 1573 decise di continuare le visite dell'esse 3 nuovi visitatori: Pietro Camaiani, vescovo di Ascoli, per Amelia, Assisi, Foligno, Nocera, Terni, Rieti e Todi, Alfonso Binarini per Orvieto e Gerolamo Ragazzoni per Gubbio. Prima di tutto ci si deve chiedere chi erano questi visitatori, dato che tale aspetto è un elemento importante per la comprensione e per un giusto approfondimento della fonte visita. Inoltre si deve subito sottolineare che questi visitatori erano visitatori speciali, come anche ieri ha sottolineato Ghezzi, inviati dal Papa in determinate zone con lo scopo preciso e unico di conoscere per controllare sistematicamente non solo l'andamento delle diocesi in Giovanni del Tridentino, ma anche il vescovo locale, che diventa così lui stesso oggetto di esame. Viene in tal modo verificata l'attuazione della riforma cattolica per eliminare eventualmente gli abusi che il tempo poteva aver radicato. Detto ciò, i visitatori apostolici li possiamo definire dei veri e propri ispettori, che nel caso di non ottemperanza alle norme conciliari sancivano pene e davano disposizioni precise su come doveva essere sanata una determinata irregolarità. Per queste caratteristiche i visitatori apostolici si diversificano notevolmente dai vescovi regolari, in quanto i primi erano stati scelti e selezionati scrupolosamente dal pontefice proprio per indagare in maniera irreprensibile e obiettiva sulle diverse realtà religiose, mentre i secondi, in alcuni casi già presenti nella loro diocesi prima del concilio, potevano più o meno aver assorbito i dettami della riforma e quindi attuavano la loro azione pastorale in modi e tempi diversi. Naturalmente, in questo contesto, è importante per lo studioso addetto ai lavori conoscere la forma mentis dell'ispettore e il suo iter precedente, proprio per poter comprendere l'impostazione e capire quelli che sono gli aspetti che al visitatore interessano maggiormente. Su questa linea ci siamo mossi. E proprio in base a tali comportamenti si è cercato subito di distinguere le visite apostoliche in Umbria tra il 1571 e il 74 in due blocchi. L'uno, omogeneo nell'impostazione, riferentesi alle visite di Pietro Camaiani e di Paolo Maria della Rovere, che riescono a dare una certa impronta personale. E l'altro, meno omogeneo e più complesso, con tre visitatori, in cui ognuno caratterizza e valorizza alcuni aspetti, a seconda della propria forma mentis, privilegiando talora elementi soltanto morali, dall'altra solo quelli strettamente materiali. Le sette visite che compie Camaiani le possiamo definire complete nel loro iter, in quanto il visitatore apostolico, in questo caso particolarmente scrupoloso e sistematico, non trascura alcun aspetto che gli si presenta ai suoi occhi. Di suo pugno, infatti, annota tutte le parrocchie, le chiese, gli oratori, le cappelle, le confraternite, gli ospedali e i monasteri, riproducendo numericamente non solo l'entità di questi, ma anche dei canonici, dei prebendati, del clero, dei religiosi in genere, anche delle anime in comunione e non. Ad Assisi, per esempio, emergono dalla visita del Camaiani dati riguardanti, oltre l'entità della popolazione, si contano in città 5.780 abitanti, nel circondario circa 12.000, anche delle parrocchie, 7 in città e 31 in campagna, delle confraternite, 11 in città e 29 fuori, e dei monasteri, 12 in città e 3 ancora fuori le mura. Con caratteristiche simili alla visita compiuta dal Camaiani, troviamo quella di Paolo Maria della Rovere, visitatore apostolico a Perugia, tra la fine del 71 e l'inizio del 72. In questa si possono rintracciare gli stessi interessi e le stesse attenzioni sottolineate nelle visite del Camaiani. Infatti anche per Perugia abbiamo dati sulla popolazione, 27.000 in città, 36.000 nel contano, sulle chiese, 320 chiese, 40 parrocchie in città, 200 in contano, sulle confraternite 26 in città, sui monasteri 19 in città e così via. Questi risultano essere elementi dunque molto importanti per informazioni demografiche. Infatti lo stesso demografo sempre più spesso si serve dei dati delle visite come unica fonte per quegli anni, in quanto nel caso delle visite del Camaiani e di Della Rovere riesce a fare un censimento sì approssimativo, ma anche molto vicino alla reale entità della popolazione. La visita del Della Rovere, passione della diocesi di Perugia, dalla metà del XVI secolo al 1860. In tale volume viene fatto un computo abbastanza preciso della popolazione perugina nel XVI secolo, come anche noi possiamo fare per le diocesi visitate dal Camaiani. Lo studioso di topografia, inoltre, può ricostruire attraverso gli itinerari di questi visitatori, che appunto ho detto sono molto precisi e particolareggiati, l'antica geografia della diocesi, talvolta anche le condizioni delle vie di comunicazione di allora. si possono anche verificare le scomparse, le modifiche, gli spostamenti di chiese, e lo storico d'arte può quindi trarne vantaggio dalle descrizioni minuziose di un'opera d'arte o di un monumento per datare un determinato cambiamento. Ad Assisi, per esempio, sappiamo con certezza quando è stata completamente distrutta la chiesa di Santa Maria delle Rose, che era ormai da vario tempo diroccata e inagibile, attraverso l'espressione del Camaiani che la definisce un cumulo di macerie. Inoltre, altre curiosità possono essere estrapolate e interessare altri settori di ricerca, come le osservazioni sull'istruzione del clero, sui libri da conservare negli archivi parrocchiali, dalle quali emerge quasi dovunque una vasta ignoranza del latino, dovuta alla mancanza o alla poca funzionalità dei seminari ancora in via di formazione. Attraverso tale fonte visita si ha così una visione organica non solo a livello statistico, ma anche religioso, perché di volta in volta viene sottolineata la frequenza religiosa, la preparazione cultuale e culturale del clero. Questo primo blocco di visite risulta dunque essere ricco di elementi per vari settori di ricerca. Le notizie che traspaiono le possiamo, come abbiamo visto, raggruppare per l'omogeneità di impostazioni in demografiche, economiche e religiose. Nel nostro caso, il visitatore compie la tradizionale visitatio rerum et hominum. Nella prima, prende in rassegna le parrocchie, le chiese, le cappelle con tutti i loro arredi, per poi giungere ai beni e all'amministrazione di questi, con l'intento di accertare come tutto ciò venga conservato e quanto sia da correggere. Nella seconda, esamina attentamente la preparazione cultuale e culturale del clero, l'osservanza degli obblighi riguardo ai riti, la residenza, l'insegnamento catechistico e la loro condotta morale. In base a ciò, è quindi nostra intenzione tentare di ricomporre e ricomporre in primo luogo la vita interna della parrocchia, che altro non è se non la cellula fondamentale della vita del popolo cristiano, con i suoi slanci, i suoi ritardi e le varianti nella pietà, nella liturgia, nell'attività organizzativa, nell'impostazione della religiosità e moralità del clero e del popolo, e poi via via tutte le altre istituzioni che abbiamo detto. Naturalmente, alla fonte visita apostolica, altre fonti vengono ad integrare tali dati, come le visite pastorali e quelle ad limina o altri documenti coevi. Queste mie, come vedete, sono ancora prime riflessioni, ma numerose altre semplificazioni potrebbero essere riportate per convalidare l'importanza degli elementi che emergono. Per questo sono state elaborate schede diversificate per parrocchie, chiese, cappelle, benefici, monasteri, confraternite, eccetera, con tutte le varie annotazioni relative all'ubicazione e alle persone. L'ho portate, ma non ve le faccio vedere perché mi vergogno. E alle persone che ruotano intorno a queste, che poi vengono riassunte in un'unica scheda comprensiva in sintesi dell'entità numerica dei dati descritti nelle schede precedenti. Mentre dalle schede particolari registriamo notizie più approfondite sullo stato materiale e anche morale di un determinato ente religioso, da quelle riassuntive si possono desumere elementi importanti per studiare la configurazione e l'andamento delle diocesi in generale e per trarre una sintesi della situazione in un determinato momento storico. Questa stessa metodologia può essere applicata, saltando il passaggio scheda, al computer e quindi elaborata componendo una grigliatura, come dice Turchini, uguale per tutte le diocesi, eliminando e arricchendo di volta in volta i vari codici relativi ai singoli aspetti. Ci sto provando, ma non so con quali risultati. L'immissione dei dati con tale sistema di grigliatura dà già una prima visione d'insieme della visita, ma naturalmente a questa deve seguire, come sottolineava ieri Toscani, in base anche agli elementi che interessano, l'elaborazione, facendo però bene attenzione, data l'inevitabile approssimazione del metodo, a leggere e interpretare tali dati con una certa dose di critica. Mettendo in ordine i dati statistici, si può dedurre l'evoluzione e involuzione della popolazione, l'aumento o la diminuzione delle parrocchie, delle chiese e delle confraternite. E passiamo al secondo blocco, che riguarda le visite di Pietro de Lunel a Narni e Spoleto, di Gerosamo Ragazzoni a Gubbio e di Alfonso Binarini a Orvieto. Per questo secondo blocco si deve fare un discorso diverso, in quanto i dati sono più generici e approssimativi. Non ritroviamo in queste visite indicazioni precise sulla demografia né sull'entità delle parrocchie e delle chiese, ma con una certa interpretazione più critica e più attenta si può giungere a comprendere tra le righe l'andamento di queste diocesi. Pietro de Lunel, per esempio, che visita Spoleto tra la fine del 71 e l'inizio del 72, nonostante usi solo espressioni stereotipe, in buono stato o in cattivo stato, per definire la situazione di una chiesa, istruito o non per il comportamento del parroco, è ugualmente attento a far applicare rigorosamente i decreti tridentini. Gli elementi che vengono in tal modo sottolineati possono essere interpretati attraverso una rilettura dei dati dal punto di vista socio-religioso. Si riesce così ugualmente a computare il numero delle parrocchie, delle chiese, oppure si riesce a sottolineare aspetti caratteristici come la frequenza all'Eucaristia, la preparazione del clero, lo stato e l'andamento degli ospedali. Ulteriori esempi potrebbero essere riportati per la visita di Gerolamo Ragazzoni a Gubbio e così pure per Alfonso Binarini a Orvieto, dove anche qui possiamo trarre valutazioni come quando il visitatore annota ciò che trova durante il suo itinerario, granum, milium, orlum, tessimilia, intus ecclesia. E l'insistenza su questo tipo di osservazioni sta a dimostrare come tali prodotti dovevano essere sicuramente alla base dell'agricoltura locale. Sappiamo infatti che Orvieto, in tale periodo, viveva in parte isolata dalle più importanti vie di comunicazione e lontana dalle grandi attività commerciali. La sua sopravvivenza era dunque essenzialmente basata sull'agricoltura. Non esiste quasi più il latifondo e la proprietà risulta piuttosto frazionata. Elementi questi che vengono desunti dalle osservazioni che fa il visitatore, unitamente allo stato materiale delle chiese. Nel manoscritto troviamo, per le chiese parrocchiali, espressioni dal tenore bene custoditam o satis decenter tenetur, a cui fanno riscontro giudizi meno favorevoli per le chiese rurali e semplici, alcune delle quali le troviamo in stato di abbandono. Un particolare che si rinviene solo nella visita apostolica del Binarini, invece ieri è stato più volte detto, è l'uso di un questionario che permetteva, in Umbria c'è solo questo in quel periodo, che permetteva da immediate risposte una globale conoscenza sulla preparazione o l'attività dei religiosi. Tale questionario rappresenta, come ho detto, per l'Umbria uno dei pochi esempi cinquecenteschi di questo tipo di indagini, che invece poi in seguito dal Settecento in poi diventerà quasi la norma per le visite. L'appunto che il Binarini fa in questo questionario a tutti i parroci è quello di essere poco diligenti nel tenere in ordine i libri dei battesimi e dei matrimoni, mentre loda, quasi dovunque, il comportamento dei parrocchiani, che risultano essere per la maggior parte piuttosto osservanti nell'accostarsi ai sacramenti. Anche qui, dunque, nonostante una minore fiscalità da parte dei visitatori, si evincono lo stesso aspetti che riescono a comporre un certo stato di cose. E anche queste visite, pur con una diversa metodologia di impostazione, sono esaustive per la comprensione di una determinata diocesi. Oltre a ciò, e con questo concludo, che qui inorganicamente, in maniera solo esemplificativa, ho detto, si potrebbero analizzare altre caratteristiche che porterebbero sicuramente a completare il quadro della nostra conoscenza. Seguendo così questa dinamica, facendo comunque bene attenzione a non ridurre il dato storico a puro dato statistico, si viene a configurare la fisionomia delle 13 diocesi umbre, per giungere ad una sintesi la più completa possibile della situazione socio-religiosa in Umbria nel periodo post-tridentino. L'obiettivo principale della mia ricerca vuole essere dunque lo studio di una società ancora poco conosciuta nei suoi eventi storico-sociali e religiosi, attraverso le visite sia apostoliche che pastorali, che spesso costituiscono l'unica fonte di conoscenza. E così, infine, senza svalutare, ma superando le esperienze del passato come quello della registrazione, si intende raccogliere in maniera precisa e sistematica, attraverso tali documenti, quella parte viva della storia della base che altro non è che la storia di un popolo. Grazie.